Convocati di Giovanni Capuano. Presidente Tavecchio, buongiorno, Radio 24, sulle 24 ore. Buongiorno. Posso rubarle solo un minuto? Mi dica. Volevo chiederle se, insomma, è soddisfatto di aver dato una risposta importante come l'ingaggio di Conte in pochi giorni. Sì, io sono molto soddisfatto perché abbiamo inaugurato una nuova stagione di fare marketing e nello stesso tempo di recuperare fondi per la federazione che saranno in futuro con l'immagine di Conte importante per portare anche all'estero il nostro modello. Naturalmente è la persona più importante dal punto di vista tecnico, era, io l'ho soprannominato condottiero, quindi gli auguro tanta fortuna e speriamo per quello che sarà il futuro della nostra squadra. Ma com'è che l'ha convinto? Sì, Conte mi ha convinto, ma è una persona che in questo momento ci voleva per dare una scossa alla nostra situazione. Senta, oggi sui giornali immagino avrà letto, in tanti discutono sulla quantità dello stipendio. Lei che risposta dà? Un risultato. Lo stipendio che paga la federazione è inferiore o comunque è in linea con quello che pagava precedentemente. Qui non hanno capito una cosa, il paese è addormentato in una situazione dove non si fanno investimenti, questo deve rientrare in un'ottica di prospettiva di investimento anche del marchio Italia. Noi dobbiamo portare all'estero delle academy, dobbiamo parlare di nuove cose, e non dire che stiamo ancorati a principi vecchi. I fondi che arrivano a Conte vengono dagli Stati Uniti, Conte li spenderà in Italia, portiamo non so cosa dire, io resto meravigliato. A noi interessava avere un grande allenatore, l'abbiamo tenuto con condizioni di convenienza, questo credo che sia la mia. Io sono contento di aver fatto questa operazione. Senta, e sull'obiezione del fatto che in gran parte paga uno sponsor, c'è chi scrive, ma bisognerà guardi, stare attenti. Uno sponsor, i grandi sponsor non hanno di queste velleità. Conte è indipendente assolutamente, lui sceglierà chi vuole come vuole e non ci sarà nessuna pressione, perché questo è almeno è il mio pensiero. Cioè la Puma non farà mai la formazione dell'Italia? Ma io non... Puma non può fare nessuna formazione, ma cosa andiamo a cominciare sempre a raccontare e a farneticare? Il problema è un altro, abbiamo bisogno di un tecnico, era il più importante, l'abbiamo realizzato, basta. Le faccio un'ultima domanda, come è riuscito a convincere invece i club a collaborare in questo modo con Conte? I predecessori di Conte hanno avuto difficoltà. L'Italia ha un sistema che deve essere, quando c'è la bandiera nazionale, quando cantano Dino di Mameli, bisogna tutti mettersi insieme e fare un discorso di italianità. I club devono capire che la federazione è anche il loro marchio, senza la federazione non si gioca da nessuna parte, la nazionale rappresenta la federazione, quindi, e soprattutto rappresenta l'Italia, tutto il resto non conta. Grazie Presidente. Buongiorno. Così Carlo Tavecchio, l'uomo del giorno, insieme ad Antonio Conte, pochi minuti fa. 800 24 00 24, 349 238 6666, questo è il numero per i vostri messaggi. C'è già chi scrive, Franco da Mantova: per fortuna che la gente reagisce al vergognoso ingaggio di Conte, un pugno in faccia a mezza Italia in crisi. In crisi c'è anche più di mezza Italia. Oggi si discute molto sullo stipendio di Antonio Conte, 10 milioni di euro netti in 2 anni. Si discute soprattutto sul fatto che a pagarlo sia in gran parte uno sponsor, la Puma, e non la federazione. Le risposte di Tavecchio pochi minuti fa le avete sentite, le perplessità sono riassunte secondo me bene nella prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, una grande foto di Antonio Conte e poi il titolo a tutta pagina, 4 milioni di contratto agghiacciante, e l'editoriale di Paolo De Paola, ora spiegatelo alla gente. Direttore De Paola, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Sentito Tavecchio? Beh sì, sentito, secondo me ascoltiamo purtroppo un refrain di una persona che non riesce a capire, proprio non riesce a capire dov'è il problema, cioè non riesce a capire che questo è uno schiaffo all'Italia, non c'entra niente la nazionale, che c'entra? Tutti siamo felici di tifare la nazionale, tutti siamo partecipi dei buoni risultati della nazionale. Questa è veramente demagogia. Noi discutiamo il fatto che si sia voluto prendere sicuramente il miglior allenatore a ogni costo, quindi fino a 1.600.000-1.700.000, già una cifra elevatissima con cui si pagava l'ingaggio di Prandelli, si poteva acquisire Conte. Se Conte non voleva fare patti con se stessi, cioè rinunciare a parte l'ingaggio che gli avrebbe dato la Juve, beh, io non sarei sceso a questo compromesso, oltretutto andando a creare questo conflitto di interesse, che se anche non dovesse succedere niente tutti saranno dei galantuomini nei comportamenti, creerà comunque una linea preferenziale tra lo sponsor e il CT della nazionale. Quindi chi è il proprietario, il padrone di questo contratto? Lo sponsor o la nazionale? La federazione dirà che sarà la federazione, però 2 milioni su 3.700.000 su 4 milioni li metterà uno sponsor. Sì, in questo momento il vero datore di lavoro di Conte, questo dicono numeri, o almeno sarebbe bello anche si facesse un'operazione di chiarezza e di trasparenza. Anzi, io credo, direttore, e noi da qui possiamo anche lanciarlo questo messaggio, visto che si tratta comunque di un accordo innovativo, di un accordo pesante, di un accordo importante, sarebbe bello ad esempio che tra lunedì e martedì, una volta ratificato, si facesse operazione di trasparenza e questo accordo lo si spiegasse davvero per bene, perché magari ci immaginiamo anche cose che invece hanno ragione i protagonisti, non hanno senso di esistere. Poi il discorso è: noi volevamo il miglior tecnico, il valore di mercato è quello, e abbiamo privilegiato la scelta dal punto di vista tecnico. Beh, insomma, io posso dire una cosa, cioè la nazionale deve avere un valore, proprio quello che diceva Tavecchio, ma il valore deve essere anche per il tecnico che rinuncia a qualcosa. Ma quale può essere il tornaconto per un allenatore come Conte, che se fa bene agli europei, per esempio, dopo può mettersi sul mercato e chiedere quello che vuole, se dovesse per esempio vincere gli europei con la nazionale? Ma è possibile che non conti nulla il vessillo della nazionale? Mi sembra veramente una pochezza di argomenti a volte di fronte a certe situazioni, sia di aridità da parte dello stesso allenatore Conte, e sia appunto il non vedere il problema da parte della federazione. Certe cose vanno fatte con chiarezza, ma guardiamo anche, paragoniamola non solo ai mega manager, come ho letto su alcuni giornali, su altri giornali oggi, ma anche sul nostro, degli stipendi dei professori, di persone normali. È una enormità, abnormità, è una cosa immorale quella che si sta facendo adesso nel nome della nazionale. La nazionale interessa a tutti, ma non a ogni costo. Quindi pagare, c'è stata una spending review, c'è un tetto che prevede anche per le cariche statali, ma scusi, la federazione che cos'è? È qualcosa che attiene un pochettino anche allo Stato, attiene anche un pochettino alle cose comuni di questa nazione. Beh, non può essere che ci sono tetti e limiti di ingaggio per i grandi manager fissati a 250.000 euro, e invece c'è una cifra colossale per l'allenatore della nazionale in più condivisa con lo sponsor. Cioè, quindi oltre che un'immoralità nella cifra, anche una condizione capestro in cui andiamo a vedere questo conflitto di interesse palese. Sì, questo lo dico per informazione per chi ci ascolta a casa, ripeto il numero 800 24 00 24, noi siamo rigorosamente in diretta, anche se è Ferragosto, quindi mollate per una mezz'oretta la grigliata, alzate il telefono e ad esempio ci dite che cosa ne pensate di questi 10 milioni in due anni per Antonio Conte. 800 24 00 24. Dicevo, direttore, lo spieghiamo però anche per chi ascolta, tecnicamente la federazione è un ente privato e non pubblico, e i soldi che prende dal CONI sotto forma di finanziamenti vanno a finanziare il resto, quello che è il calcio dei dilettanti, dei ragazzi, dei giovani. L'attività della nazionale si finanzia con i diritti televisivi, con gli sponsor ad esempio, e tutt'altro. Ho fatto un distinguo assolutamente netto, tant'è vero che il governo non è potuto e non può intervenire per esempio nella gestione dell'elezione del presidente federale. Al di là di tutto ci potrebbero essere delle sanzioni FIFA, quindi lo abbiamo scritto e chiarito, però io dico si devono un pochettino mettere sullo stesso piano determinate cose. Comunque la federazione italiana, si chiama appunto federazione italiana, rappresenta qualche cosa che attiene a un bene comune. Poi lasciamo stare il tipo di finanziamento, i soldi a dove arrivano eccetera, quindi c'è un qualche cosa che non può essere al di fuori del contesto in cui si vive, al di fuori del contesto del paese. Ma poi a che titolo? Cioè, ci sono industrie che chiudono, ci sono industrie in difficoltà, disoccupati, persone che non vanno a festeggiare il Ferragosto, uno su due rimane a casa, e noi dobbiamo assistere a questo balletto di cifre perché un allenatore ha deciso di non poter fare a meno di 4 milioni o 5 milioni all'anno. Questo, insomma, ecco, non lo voglio mettere in nessuna fase demagogica, né su un aspetto moralista, però voglio mettere un attimo su un aspetto pratico, realistico, di esempio anche per quello che avviene nel nostro paese. Sì, c'è chi scrive 349-238-6666 perché da questa mattina il tema è ovviamente argomento di discussione, se paga lo sponsor che cosa ve ne frega, oppure c'è chi dice grande direttore, Corriere dello Sport, giornale senza padroni e padrini. Secondo me è senza padroni e padrini anche chi magari in queste ore sostiene il contrario, e non sono io, perché qualche perplessità c'è. Direttore, ti chiedo però ancora un minuto di pazienza, arriva anche Pierluigi Pardo, sentiva nostalgia di tutti i convocati. Traffico. Gufi, state a casa. Gufi, state a casa. Il comunicato della FIGC parla di un compenso allineato ai costi della precedente gestione, ma facendo i conti Tavecchio garantisce a Conte un livello salariale quasi tre volte superiore a quello di Prandelli, i cui bonus tra l'altro erano a metà con la federazione. Conte entra sul podio dei CT nazionali più pagati al mondo, superando anche il campione del mondo Löw. Inizio a essere stufo di questo. Difendo a spada tratta la scuola, difendo a spada tratta il mio lavoro, che è un grande lavoro, e ringraziare il Signore che c'è Conte. Gli altri vengono al campo per rompere le scatole. Eh sì, così massacriamo tutti. Eh sì, massacrate, massacrate. Infatti, bel lavoro questo qua, bel lavoro. Complimenti. Gufi, state a casa. Money, it's a crime. Share it, share it. Don't take it as my part. Io mi sono stufato. Detto questo, mi dà ancora più forza nel lavoro, ancora più avvelenamento. Poi che non salga nessuno su quel cazzo di carro, ve lo dico. E chissà, magari ce lo dice davvero martedì prossimo, quando Antonio Conte parlerà per la prima volta da commissario tecnico della Nazionale, quando sicuramente dovrà rispondere anche a domande sul suo stipendio record, sul fatto che paga lo sponsor, eccetera, eccetera, eccetera. Stiamo recuperando la linea col direttore De Paola, linea che è caduta, però c'è Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Ciao, come va? Sentivi, bene? Sentivi nostalgia? Sì, beh, le vacanze fra poco finiscono e quindi ci vediamo presto. No, io il carro l'ho fabbricato, sul carro di Conte. Questa volta rivendico il diritto di averlo fabbricato all'indomani dell'addio alla Juve. Sei già comodamente seduto. Questa operazione è un capolavoro, secondo me è un capolavoro. Poi chiaramente a vedere se Conte riuscirà a fare quello che ci auguriamo tutti, credo, tutti i tifosi della Nazionale. Ma insomma, la Nazionale ha speso praticamente gli stessi soldi di Prandelli, se non qualcosa di meno, ed è riuscita a tirar fuori il miglior allenatore che si poteva prendere in questo momento, visto che il migliore in assoluto è Ancelotti e guadagna tre volte la cifra che guadagna Conte. Per cui a me sembra che stia facendo tanta confusione, mi sembra che il contratto sia ampiamente innovativo. Sicuramente ci sarà da vigilare sui giocatori Puma, tanto per essere chiari, e sulla loro convocabilità, ma dico la sincera verità, penso che non con Balotelli qualche malumore alla Puma l'avrebbe creato anche prima, no? E detto questo, noi non abbiamo mai pensato che Prandelli convocasse Balotelli perché è un giocatore Puma, ha fatto le sue scelte tecniche. Questa cosa è successa con Prandelli, succederà con Conte. Non penso che Conte si farà manipolare dallo sponsor tecnico. Sì, questo lo credo anch'io, Pier. Poi, ma ne parlavamo anche ieri col presidente Abodi, che ci ha detto voi parlate così perché noi siamo italiani, siamo abituati alla dietrologia. Però proprio perché è innovativo qualche domanda ce la si può porre. Altrove, ad esempio nel grande Brasile, la Nike ha un certo peso nelle scelte della federazione, nelle scelte della nazionale e anche in alcune programmazioni strategiche. Sui 5 milioni è il valore di mercato di Conte, certamente capisco che in un momento come questo di crisi qualche riflessione possa fare. Voglio dire, questo vale per tutti, cioè allo stesso modo uno potrebbe dire da Ancelotti, con tutto quello che ha vinto, perché non rinunciare ai soldi del Real Madrid, sto parlando di un amico, sicuramente Ancelotti, mi onoro di considerarlo una persona con la quale ho ottime relazioni e che considero il numero uno. Qualsiasi allenatore che guarda più in questo momento al capello, perché non rinuncia ai soldi della Russia per venire a allenare l'Italia? Sentiamo un discorso di prima, un discorso per carità che ha un suo, una sua piena legittimità, ma esiste un mercato. Non è colpa mia se esiste un mercato. Io trovo che sia assurdo, come ho letto oggi sul Corriere dello Sport, che un allenatore guadagni 5.000, quanto 5.000 insegnanti. Ma questa cosa si chiama mercato e non si risolve col socialismo. Sì, secondo me, Pier, però, non c'è. Però Pier, secondo me il discorso è per cosa stiamo pagando Conte 10 milioni in due anni, se lo stiamo pagando per portarci agli europei superando Azerbaigian, certo, Malta, Croazia, Bulgaria, perché c'è anche il bonus per qualificarsi agli europei ed è anche sostanzioso, e poi magari a primavera del 2016 a Conte viene in mente che ha scelto poi un'altra strada professionale, beh allora secondo me sono troppi quei soldi. Se invece è l'inizio di un percorso in cui davvero Conte per almeno un quadriennio prende in mano le sorti del calcio italiano per quanto riguarda la federazione e la nazionale, beh allora ti dico, allora questo sì può essere un investimento. Io l'Europeo del 2016 lo vorrei vincere, o perlomeno vorrei fare una bella figura da tifoso della nazionale, e oggi secondo me è stato preso il miglior allenatore fra quelli che si poteva prendere, con una ingegneria sicuramente che può sembrare spericolata, ma che di fatto è ciò per il quale l'altro giorno abbiamo battuto le mani al Real Madrid. Abbiamo detto che Real Madrid ha preso James Rodriguez, ma già un quarto del costo è stato ripagato dalle magliette. Qui è stato preso Conte con la certezza che il costo in più sarà pagato dallo sponsor. Lo sponsor dà quei soldi perché c'è Conte, perché si fida di Conte e perché gli fa piacere legarsi con un allenatore forte. Se ci fosse stato un allenatore magari altrettanto bravo ma di minore AP, da quei soldi lo sponsor tecnico non li avrebbe dati. Quindi non è che stiamo parlando di questa operazione dal punto di vista tecnico, non fa una piega. Si può discutere ovviamente Conte come allenatore, si può fare opinioni, qualcuno preferiva Guidolin, qualcuno può preferire altri. Sì, c'è anche chi continua a preferire un tecnico federale, lo scrive Nunzio da Venezia al 349-238-6666, poi c'è chi dice Conte esagitato in panchina, esportiamo un'immagine negativa, e poi ci sono tanti che ricordano la condanna per omessa denuncia. Io lo dico da una settimana, secondo me, detto che Conte ha pagato il suo conto con la giustizia sportiva, poi dopo le scelte non si fanno con in mano, quindi, il casellare giudiziario. Paolo Rossi, almeno Paolo Rossi, i gol di Paolo Rossi dell'82 ce li cancelliamo. Ecco, ti convince, Pier, la promessa collaborazione dei club? Questo è l'aspetto che a me convince meno. Ma guarda, io ho parlato con Conte all'indomani del suo addio alla Juve, non credo che avesse in testa minimamente l'idea della nazionale, ma credo che il nodo fondamentale anche. Può sembrare un paradosso, ricordandoci la polemica di Chiellini, no? Della convocazione di Spagna-Italia, però in realtà invece secondo me è quel tipo di approccio lì, cioè Conte è uno spacca, no? È un martello, ecco, diciamo è un martello, quindi è uno che ha l'abitudine di lottare per gli obiettivi e per quello che gli interessa era molto forte e molto precisa. Nel passato si era lamentato della scarsa collaborazione che c'era con la nazionale dal punto di vista del club, perché diceva appunto che i medici della nazionale, lo stesso Prandelli, non venivano mai. Io sono sicuro che lui romperà le scatole, quindi secondo me la scelta di un commissario tecnico forte darà una mano alla federazione nella querelle, nella dialettica con i club. Io ho il timore, ho il sospetto che in questo momento Conte, uomo della provvidenza, fosse così forte da poter chiedere qualsiasi cosa. Siamo al 15 agosto, ne riparliamo il 15 settembre, quando poi i club dovranno magari calendario alla mano, prendere quelle due o tre date che rimangono libere e destinarle alla nazionale. In passato questa operazione è stata complicata, anzi diciamo non è quasi mai riuscita, probabilmente a settembre ci sarà un clima differente, ci sarà meno emergenza di trovare un CT. Questo è un punto interrogativo, così come è un punto interrogativo, anche se manca la controprova, il fatto che Conte non abbia mai allenato la nazionale. Cioè, chi dice che è un allenatore da tutti i giorni, da lavoro quotidiano sul campo, dice una cosa che può essere giusta. Secondo me manca la controprova, cioè, non abbiamo mai visto Conte con la nazionale, non l'abbiamo visto far bene con i club e fallire con la nazionale. L'abbiamo visto far bene con i club. Con la nazionale chiaramente c'è il punto interrogativo e ci può essere legittima, ce l'ho anch'io il dubbio che un allenatore così martello abbia bisogno di un lavoro incessante, che qui chiaramente non potrà fare. Quindi, insomma, le incognite ci sono, però io dico la verità, mi sembra che c'è molta confusione in questo momento, c'è molto qualunquismo e molta demagogia. Poi Conte non è neanche una scelta popolare, perché diciamocelo apertamente, i juventini sono il 30% degli italiani, lo considerano un dio, lo considerano il capitano, ma di questi juventini ce ne sono molti che si sentono traditi comunque in questo momento dalla scelta. Quindi in questo momento, se devo fare il Mannheimer dei poveri, ti dico che Conte sarà popolare al 20-25% degli italiani, non di più, insomma. Sì, penso, no? Diciamo, non è amatissimo da tutti. Quindi gli juventini per questa scelta è spesso odiato da tutti gli altri. È una scelta tecnica, perché è fortemente connotato. Sì, è quella, però secondo me in questo momento, che se l'obiettivo è tornare a giocare a pallone in un certo modo, vincere, avere un certo tipo di disciplina, scusate, ma non ci siamo lamentati fino all'altro ieri del ritiro vacanza, come dice qualcuno, della nazionale all'europeo? Forse con Conte. Sì, forse con Conte questa cosa non accadrà. Poi ricordo che sul programma di Tavecchio c'era scritto: il prossimo CT non dovrà scegliere gli alberghi, e invece ovviamente Conte avrà assolutamente carta bianca su tutto. Abbiamo ancora un minutino, Pier, prima di salutarti, invece volevo chiederti che nazionale sarà quella di Conte, se sarà profondamente diversa da quella di Prandelli, o se invece ha ragione chi dice, e io mi unisco a questo partito, in Italia ci sono una trentina di giocatori al massimo che possono essere chiamati in nazionale e più o meno erano quelli di Prandelli, quindi il vero problema è questo. Sì, io credo però assolutamente, io non mi aspetto rivoluzioni clamorose, non mi aspetto nessuna sudditanza nei confronti della Juve, cioè secondo me Conte è talmente tifoso di se stesso che non è che sta a convocare quelli della Juve perché è amico della Juve, a parte che non lo so alla fine come si sono lasciati, quindi c'è anche un ulteriore elemento, ma veramente sarebbe far torto all'intelligenza di Conte pensare che vada a scegliere il giocatore della Juve perché per una forma di simpatia. Secondo me sarà abbastanza simile come squadra, quello che deve cambiare sarà disciplina, manico, regole all'interno del gruppo. Da questo punto di vista Conte ha fatto cose eccezionali con la Juve, è un dato di fatto, è oggettivo e secondo me è la scelta più logica dal punto di vista tecnico, lasciando perdere poi tutte le altre considerazioni che sono pienamente titolari di diritto di cittadinanza. Se ne può discutere e se ne discute nei bar e a tutti i convocati. Ci sarà anche la grande curiosità di vedere Conte alle prese con Balotelli e viceversa, cioè Balotelli alle prese con Conte. Non è il primo allenatore duro della sua carriera, Balotelli, ricordo, è passato anche da un certo Mourinho e ha reso anche bene, poi c'è stata la rottura finale, però sarà interessante perché in tanti nelle ultime due stagioni hanno detto: ah, chissà cosa farebbe Balotelli allenato da uno come Conte. Ecco, qui immagino dal 1 settembre, poi vedremo se sarà chiamato, avremo tutte le risposte. Grazie. Ragazzi, al volo, solo mediaticamente, pensa come era uscita la nazionale mondiale. Io ho fatto una chiacchierata con il responsabile commerciale della nazionale all'indomani del fallimento, c'erano perplessità enormi sulla nazionale perché chiaramente questa figuraccia e c'era il dubbio che gli sponsor potessero fuggire. L'arrivo di Conte da solo è un'iniezione clamorosa e questo va riconosciuto, poi se andrà bene o andrà male non lo so, ma è un investimento che paga uno sponsor e che secondo me per l'azienda Club Italia Nazionale è un investimento giusto, direi l'unico possibile in questo momento. Grazie Pier. Ciao, pubblicità. Allora inizio a stufarmi di sentire delle stronzate in settimana da pseudo intenditori di calcio. 800 24 00 24, diretta Ferragosto, chiamate, vogliamo sapere che cosa ne pensate dei 10 milioni in due anni che la Federcalcio e lo sponsor, in questo caso la Puma, daranno a Conte perché ci porti all'Europeo del 2016 e possibilmente ci porti avanti almeno in semifinale, perché se supera la semifinale poi c'è un altro bonus da 500.000 di euro e magari può anche fare meglio di Prandelli nel 2012 a Kiev e regalarci il titolo europeo. 800 24 00 24, Ivo da Napoli. Ciao, buongiorno a tutti e buon Ferragosto. Ciao anche a te, prego. Beh, io sto ascoltando tutti gli interventi e sinceramente la mia posizione, lo dico da principio, è una posizione contro Conte, perché il semplice, per il motivo che ritengo immorale, come è stato detto nel penultimo intervento, un ingaggio del genere. Però pur tuttavia io devo dar ragione anche, se ricordo bene, a Pier l'ultimo intervento, che dal punto di vista diciamo dell'economia, del panorama, se vediamo il mondo del calcio e anche quello delle nazionali come mondo del business, tutto sommato è un innesto, questo forse è l'unico possibile. Era, però, è l'uomo della provvidenza per vari motivi, non solo quello tecnico, cioè a parte Mancini che allo stesso modo era libero, è certamente il miglior allenatore italiano libero, e poi c'era il bisogno di dare una risposta forte all'ambiente, agli sponsor, c'erano le polemiche, c'era questo anche, Ivo. Ecco, sì, però io mi chiedo scusa, ma io quello, noi abbiamo due problemi: rifondare il mondo del calcio italiano, noi l'abbiamo visto con gli ultimi mondiali, i nostri giocatori, non a caso ancora il calciomercato, quando io sento nomi di calciomercato sento tutti stranieri, come se i nostri giocatori provenienti probabilmente dalle serie minori o quei pochi italiani che giocano in Serie A, insomma, evidentemente sono tutti brocchi. Quindi noi dobbiamo rifondare il calcio e però partire da zero, dalle fondamenta, perché non è possibile questa esterofilia. Sì, però Ivo, poi ci sono anche altri amici che ci stanno aspettando. È vero, però la nazionale deve vincere, la nazionale italiana deve qualificarsi per l'europeo e andare poi in Francia cercando di vincere. L'altro discorso, quello di rifondare il calcio italiano, è un discorso che dobbiamo affrontare tassativamente, va fatto da lunedì. La priorità era dare un commissario tecnico alla nazionale, però si può anche fare con un po' più di tempo. Fabio Guadagnini, ciao, sei d'accordo? Ciao, sì, sono d'accordo, questa era una priorità ed è stata fatta la scelta migliore secondo me, perché Conte rappresenta proprio il profilo di un allenatore che prenderà delle decisioni forti per raggiungere quei traguardi che sono necessari a tutti, perché una nazionale vincente nel mondo è anche il miglior biglietto da visita per la Serie A al calcio italiano nel mondo. Poi c'è la priorità poi vera, è una ristrutturazione, e quindi secondo me bisogna sospendere il giudizio e aspettare almeno i primi due mesi di attività della nuova Federcalcio per capire effettivamente se c'è la volontà di cambiare le cose. Dovrà farlo la federazione, dovrà farlo anche la Lega Calcio. Sì, sono due discorsi assolutamente paralleli, cioè la nazionale viaggia su un binario e tutto il resto del discorso viaggia su un altro binario. Poi sarebbe bello capire, magari da te che ti occupi molto di calcio straniero, quindi conosci tanto, se ad esempio questo modello innovativo che abbiamo importato, cioè quello dello sponsor che ha un coinvolgimento diretto nella gestione di o scelte anche tecniche di progettualità e di strategia della federazione, davvero non presenta dei profili di rischio? Secondo me no, conoscendo Antonio Conte, non è certamente ci fidiamo dell'uomo. Io mi fido dell'uomo e mi fido anche di quello che magari non è scritto, cioè del fatto che comunque il commissario tecnico avrà nella sua gestione, essendo poi un commissario tecnico che ha mansioni allargate, perché sostanzialmente è responsabile di tutto il settore azzurro, comprese anche le nazionali giovanili, cioè quindi tutto ciò che sta intorno e che contribuirà poi alla crescita della nazionale maggiore, avrà un'indipendenza assoluta. Poi chiaramente questa valenza commerciale è dettata dal fatto che Conte ha quel valore di mercato, però ripeto, io prima di dare dei giudizi anche sulla moralità, visto che il dibattito è aperto, sulla congruità di questo stipendio, che è sicuramente uno stipendio comunque lontano rispetto a quello che l'intero paese sta vivendo dal punto di vista economico, è anche vero che anche qui attenderei, cioè se arriviamo a quei risultati, per me è fondamentale avere una nazionale che torna a essere una squadra di successo, che torna a dare grandi campioni, che torna ad essere un valore aggiunto per l'industria del calcio in Italia. Se arriviamo a quei traguardi, allora il prezzo è giustificato, naturalmente, come per tutte le cose d'altronde. Che poi i risultati della nazionale non siano diretta conseguenza dello stato di salute di un movimento calcistico, ad esempio, è confermato da quello che succede in Inghilterra, campionato ricchissimo, il più ricco del mondo, nazionale così così, campionato che domani riparte. Cause you're a sky full of stars. Siamo cerca lo spunto, l'inserimento centrale, Cazorla se la sposta sul mancino, Cazorla! Santi Cazorla l'ha sbloccata al 21esimo, sinistro diabolico, imparabile, 1-0 Arsenal. Sanchez può innescare il taglio profondo di Sanogo, parte in posizione regolare, corpo a corpo con Boiata, cerca l'assist in qualche modo, la trova per Ramsey, ancora Ramsey, ancora Wembley, 2-0 Arsenal, Aaron Ramsey. Intanto Giroud difende il pallone, va col sinistro Giroud, dal nulla Olivier Giroud, è il punto esclamativo forse per l'Arsenal, 3-0. Eccolo il momento in cui Arteta sta per alzare e alza il Community Shield 2014, è la festa dei giocatori e dei tifosi dell'Arsenal, ancora in festa qui in questo scenario a Wembley dopo l'FA Cup di solo poche settimane fa. Premier che riparte dall'Arsenal che ha vinto, lo avete sentito nel Community Shield. Arsenal, carissimo Fabio Guadagnini, che mi stuzzica moltissimo, da domani si potrà vedere tutto in esclusiva su Fox Sport. Noi ci siederemo anche sempre con quel pizzico di invidia che abbiamo oramai verso questo campionato meraviglioso che è la Premier League. È così, in effetti è così, perché tante volte naturalmente in queste settimane il dibattito è aperto, noi essendo un po' la casa di questi campionati del top player, non soltanto la Premier League ma anche la Liga, poi la Bundesliga è un grande fenomeno, insomma molti chiedono cosa deve fare il calcio italiano per risollevarsi, ma semplicemente guardare fuori, cioè io credo che Germania e Inghilterra in primis rappresentino dei modelli proprio di business che permettono poi di dare degli ottimi risultati sul rendimento nel caso inglese del campionato, poi giustamente tu puntualizzavi anche l'Inghilterra, non è stata certamente brillante per essere eufemistici ai mondiali, e anche l'Inghilterra soffre un po', però lì la sofferenza è dettata da un valore oggettivo del campionato che è straordinario, lì abbiamo il 92% di affluenza negli stadi, gli stadi sono tutti di proprietà, sono tutti dei gioielli, e poi il mercato di quest'estate ha generato quasi 600 milioni di euro portando altri grandi campioni, e quindi è un po' l'NBA del calcio. Io per semplificare dico sempre, il calcio in campionato inglese è diventato l'NBA del calcio nel mondo. Anche se lì c'è qualche problema, ma oggi leggevo, caro Biglietti, il sit-in dei tifosi sotto la sede della Premier per chiedere biglietti che costino meno, perché poi ci sono diversi modelli, ad esempio c'è quello della Bundesliga con prezzi popolari per avvicinare la gente anche dei ceti più bassi, quello inglese è un modello diverso, non è detto che necessariamente sia il migliore, anche se dà i risultati da campionato migliore, l'importante è che ne scegliamo uno e lo seguiamo. City, United, Chelsea, Arsenal, Liverpool, chi la vince questa Premier? Allora se devo guardare un po' quello che dicono i bookmakers, il Chelsea che è dato a 4 su 7, quindi è non dico che è alla pari come puntata, ma quasi. Effettivamente Mourinho ha fatto pochi ritocchi, ma li ha fatti nei posti giusti, e poi in Premier League ci sarà Fabregas lì a dare, diciamo, ordine a questa squadra che davanti poi scommette molto su Diego Costa, che è stato uno degli acquisti più importanti. Poi c'è il ritorno di Courtois, che è uno considerato, insomma, il nuovo check a livello mondiale, insomma, in questo ruolo è sicuramente tra i giovani portieri quello che è il prospetto migliore. Quindi Chelsea, l'Arsenal comunque ha dimostrato appunto già nel Community Shield di essere la squadra attrezzatissima, forse gli manca in difesa un leader forte che riesca a reggere, a dare personalità nei momenti di difficoltà, nei momenti di maggiore pressione, però certamente questa è una squadra che mi ricorda in qualche modo il Barcellona del primo Guardiola, quindi una squadra molto dinamica che verticalizza con grande facilità. Però la cosa più bella è che questo è un campionato estremamente equilibrato, perché ci sono almeno 5-6 squadre in grado di vincere il titolo. Sì, cosa che in questo momento non si può permettere nessuno in Europa. E poi c'è Van Gaal e c'è il Manchester United, che parte quasi da zero dopo la stagione peggiore, credo, dell'ultimo trentennio, e anche questo sarà un argomento sicuramente di grandissimo interesse. Grazie Fabio. Grazie a voi, esordio domani proprio con il Man United, gioca contro lo Swansea, cominciamo alle 13.45 su Fox Sport. Grazie. Fox Sport, quindi tutto su Fox Sport per vedere la Premier. Grazie Fabio. 800 24 00 24, cominciamo con Massimo da Parma. Massimo. Buongiorno. Prego. Ciao, buongiorno. Grazie di farmi intervenire. Mi rifacevo alla lettura che ho letto stamattina di Buongiorno di Massimo Gramellini sulla Stampa, che è meno peggio avere i quattrini da un privato piuttosto che dalla federazione, perché almeno Conte potrà fare ciò che vuole. Diversamente, se avesse avuto i soldi solo della federazione, doveva sottostare, Gramellini dice, a Buana e a Sciorlotito. Almeno in questo modo lui potrà decidere da farsi sempre comunque in piena libertà e in autonomia, e basta con questa polemica dei denari, che poi alla fine lui se li merita pienamente. Io non sono tifoso della Juve, anzi tutt'altro, però ha dimostrato fino ad oggi di essere un grandissimo allenatore ed è giusto che lui abbia l'opportunità di allenare l'Italia. Lasciamolo lavorare, lasciamolo incominciare, vediamo quello che potrà dare. Sì, sui denari questo abbiamo detto, Massimo, sul fatto che Conte senza i soldi della Puma sarebbe stato ostaggio di Tavecchio e Lotito, ma non lo so, mi sembrano valutazioni poco legate a quello che accade nella vita quotidiana di una federazione. Prandelli lavorava per conto suo e non era costretto da Bete, Lippi ha vinto un mondiale per conto suo ed è stato anzi protetto in quel momento da Guido Rossi, che era commissario. Non lo so, io non vedo questo problema. Alessandro da Roma, Alessandro. Sì, buongiorno. Prego. Allora, intanto per riprendere l'ascoltatore prima, l'allenatore grandissimo si può definire tale se vince qualcosa fuori dai confini nazionali, e Conte ha ancora tutto da dimostrare. Sì, è anche giovane, Alessandro, è anche giovane per carriera. Però non è grandissimo, accetto che non è giovane, però accetti io vi ricordo qual era la considerazione di Ancelotti prima che vincesse la prima Champions con il Milan nel 2003, vero spartiacque della sua carriera, era considerato un perdente, oggi è forse il miglior allenatore del mondo. Sì, no, quindi no, attenzione. Non ho assolutamente nulla contro Conte, però a definirlo grandissimo è un po'. Poi non so se in un'altra considerazione, non ho acceso la radio un po' in ritardo, non so se è stata fatta prima, non è tanto per i soldi dello sponsor e i ricatti da vecchio, può essere tra virgolette ricattato dallo sponsor, un occhio di riguardo nei confronti dei calciatori che hanno lo stesso sponsor di Conte, questo è inevitabile, che non dico che possa accadere, ma che avvengano certe considerazioni. Ha risposto prima Tavecchio, ha detto Conte sarà assolutamente indipendente, la sola ipotesi che la Puma possa fare convocazione e formazione è una farneticazione. Grazie Alessandro, traffico. Chi ha dimostrato di essere un vincente sopporta benissimo la fatica e le pressioni che ne consegue. Mario da Milano. Pronto? Prego. Buongiorno. Dica. Senta, una cosa volevo dire. Conte è meraviglioso come persona, cioè ha vinto 3 scudetti nella Juve, tutto bene, ci leviamo il cappello, però come persona non è che sia super simpatico, no? Sì, ma non è necessario, perché Lippi era simpatico, Berzotti era simpatico, non lo so. Assolutamente, però ha ragione quel direttore che ha parlato prima, chi è? De Rosa. De Paola, Corriere dello Sport. Non è questione di demagogia, a un certo punto si dice, la federazione, l'abbiamo sempre detto, c'è un limite, ne hanno parlato i giornali, non io, che non sono nessuno, ma a un certo punto dice guardate, questa è la federazione, si dà un limite a tutto, non so, 1,5 milioni cos'è? Sono 4 soldi, non credo. A un certo punto si mette un limite, se il signor Conte vuole 5 milioni che sia a casa sua va a allenare il Manchester, questa è la mia idea. Sì, ma è un'idea assolutamente legittima, noi ne stiamo parlando, poi andremo avanti anche a parlarne. Il valore di Conte di mercato è probabilmente quello, 4 milioni, 3,5 milioni, lui dalla Juventus preso nell'ultima stagione 3,5 milioni più una serie di bonus, quindi è andato molto vicino a quei 5 milioni avendo vinto. Semplicemente la Federcalcio ha ritenuto che in questo momento servisse Antonio Conte, cioè la miglior scelta, che in fondo è quello che dicevamo tutti fino all'altro ieri, e poi comunque è legittimo anche discutere dello stipendio e delle modalità con cui verrà pagato lo stipendio di Antonio Conte. Fabio da Trieste, Fabio. Pronto, ciao. Eccoci. Io sono d'accordo sul fatto che la legge del mercato non si discute, se il calcio decide che si può pagare tanto soldi non è questo il problema, però il livello è proprio che Conte, secondo me, non è un allenatore che ha dimostrato nulla ancora a livello europeo internazionale, finora è stato solo un perdente a livello internazionale con una squadra come la Juve, che lo sono scorso in Champions e tra fine in Europa League non ha brillato. Sì, anche, poi, anche se Fabio, il mio giudizio su Conte in Europa però non è così drastico. Il primo anno in Europa è uscito dal Bayern di Monaco che era oggettivamente superiore, quindi ha fatto quello che doveva fare. Nel secondo è caduto male in Champions e poi è arrivato in semifinale in Europa League, ha perso contro il Benfica. Noi continuiamo a sottovalutare tutti gli altri, convinti di essere ancora quelli di 10 anni fa. Secondo me dal Benfica si può anche uscire in una competizione europea. Questi sono i 3 anni di carriera di Conte ad alto livello, secondo me sono un ottimo palmarès con i 3 scudetti vinti e sono sufficienti per dire che in questo momento Conte è certamente tecnicamente un allenatore valido, e poi lo valuteremo nel 2016, dove deve partire dalla finale di Prandelli, che prendeva un terzo del suo stipendio ed è arrivato in finale, visto che molto si ragiona anche sui bonus. Davide da Milano. Davide. Sì, pronto. Prego. Buongiorno. Io guardi, sono un tifoso juventino, però sono scettico diciamo sulla scelta di Conte. Questo perché? Perché Conte sicuramente ha dato modo di vedere grandissimo calcio in Italia, tuttavia in Europa la Juve non è stata assolutamente all'altezza delle altre squadre di calcio. In particolar modo nell'ultima stagione è uscita nel primo girone di Champions League ad un girone completamente alla portata di una squadra italiana. Poi la seconda cosa su cui mi rende scettico è che Conte sicuramente, come dicevate prima, è un mister, è un grande martello, un martello pneumatico, tuttavia bisogna vedere se diciamo con le tempistiche della nazionale, con degli allenamenti comunque sporadici, riesce ad infondere ai calciatori questo suo grandissima carica agonistica. Questa secondo me è la grande scommessa, Davide, questa è la grande scommessa insieme alla collaborazione del club, che oggi metà agosto con l'emergenza di avere un commissario tecnico e di avere quel commissario tecnico che è stato scelto, che era Antonio Conte, la Federcalcio ha dato per scontata. Non so se sarà così anche a metà settembre, a metà ottobre o a gennaio-febbraio, nel momento clou della stagione, quando Conte vorrà fare quegli stage che gli sono stati promessi, garantiti, si dice addirittura nero su bianco. Parliamo di moto. Per la prima volta sotto grande pressione Marquez, ma ancora una volta Qatar, Texas, Argentina, Jerez, Le Mans, Mugello, Catalogna, Assen, Sachsenring, Indianapolis, Marc Marquez, 10 di fila, Jorge Lorenzo secondo, sul podio, terza piazza per il dottore Valentino Rossi. Per cercare di lottare per il podio bisognerà fare il massimo, perché anche Pedrosa è storicamente molto veloce, Jorge è molto veloce e Marquez è velocissimo, quindi per stare con loro bisognerà fare il 100%. Secondo me la nostra moto va molto bene e sta crescendo, stiamo migliorando tanto, però la Honda ancora va un pelo di più. E è anche vero che, cioè non è che va un pelo di più, in certe aree ha qualche piccolo vantaggio. È anche vero che Marquez è comunque quello che vince, e se non ci fosse lui spesso Pedrosa riusciamo a batterlo, ecco, quindi è l'insieme moto e pilota che fanno la differenza. È vero che Marquez è un fenomeno e che da oggi, perché sono in corsa le prove libere, Abno va a caccia dell'11° successo consecutivo per battere anche, non solo eguagliare, il record di Agostini e di Duan. Roberto Ungaro, direttore di Riders, ciao Roberto. Ciao, buongiorno a tutti. Sì, perché poi la differenza non la fa solo la Honda, questo è il messaggio di Valentino Rossi, che mi sembra abbia fatto la lettura migliore della situazione di questo mondiale già ampiamente finito. Assolutamente, è stato onesto dire tutto l'insieme, Valentino, dicendo moto più pilota, ma in questo momento Marquez è la vera differenza. Honda forse ha ancora un filo di margine, è superiore nello stop and go, cioè nell'accelerazione magari in staccata, però Yamaha è cresciuta tanto, lo ha fatto vedere a Indy, e questa che è storicamente una pista Yamaha, anche se l'anno scorso Pedrosa fece l'acuto e Honda si è fatta vedere, e diciamo che comunque Yamaha ha recuperato parecchio. Quello che sulla carta rimane a fare fare la differenza, e questo ragazzo che ha 21 anni e 174 giorni ha eguagliato il record di Duan di 10 vittorie, e quindi gli manca di prendere la leggenda Mike the Bike, ovvero Mike Aylward, l'inglese che ha 24 anni e 108 giorni, realizzò la impresa ma nel 1974, e parliamo di altri tempi. Sì, parliamo della preistoria, di altre moto, di tutta una situazione differente. Hai avuto l'impressione da Marquez, in parte l'ha detto anche lui, che da Indianapolis abbia cominciato a correre in maniera più cattiva, cioè controllando, lasciando un po' di spazio, limitandosi a tirare alla morte solo per mettere distanza tra lui e gli altri nel momento decisivo, che però può anche essere il preludio per un finale di stagione in cui ci sarà spazio per qualcuno. Allora, più che cattiva userei un aggettivo diverso, più ragionata, perché Marquez, lo abbiamo visto in partenza in Indianapolis, è stato lì, ha guidato di conserva, come si dice in gergo, come diciamo noi, e addetti a settore, e ha lasciato che gli altri facessero vedere i loro valori in campo, e poi ha dato l'affondo, ma quando poi è andato non c'è stata niente per nessuno. E la prima metà gara di Indianapolis è stata strepitosa in quanto allo spettacolo, ha fatto vedere un grande Lorenzo che è stato lì a battagliare, è risorto, ha recuperato i problemi che aveva più che altro psicologici, e quindi direi che un market sta maturando davvero molto velocemente, perché il fenomeno c'è, la moto c'è, quello che mancava magari era capire se lui poteva essere già maturo, ma lo ha dimostrato a Indianapolis, e quindi secondo me ormai che lui faccia risultato non fa più notizia, non fa più sorpresa, dobbiamo solo capire come reagirà in situazioni di emergenza, di pericolo, in situazioni dove deve recuperare, anche se in parte lo ha già dimostrato. Sì. Valentino molto onesto, ha dichiarato. Valentino che aveva anche gli occhi di quello che sotto sotto pensa che questo possa essere il fine settimana giusto. Domenica scorsa ha assaporato il piacere di stare in testa per qualche giro, di lottare, poi questa è una pista che gli piace, è la pista della prima vittoria. Hai l'idea che Valentino possa regalarci qualcosa in questo weekend? Allora, la sua ambizione è stata il podio, l'ha dichiarato, secondo me il podio di Valentino è già un grande successo, se portare davanti diventa difficile, non solo per Marquez, ma ricordiamoci anche di un suo compagno di squadra che si chiama Orge Lorenzo, che ha recuperato tutto e quindi adesso sta facendo vedere il suo valore in campo. È una sfida personale, è la Spagna che si mette in campo, e Lorenzo secondo me in questo momento forse ha un po' più di fame rispetto a Valentino, e quindi direi che forse mette più in gioco lui rispetto a Vale nei confronti di Marquez, per dimostrare, anche se Valentino è sempre lì, gioca d'astuzia, di esperienza, è il terzo incomodo che però riesce a approfittarne quando gli altri due litigano, e chissà mai che se gli altri due dovessero litigare la porta si apre per il nostro Vale, dove qui il 96 vinse la sua prima gara e poi l'anno dopo vinse 125, perché Valentino è semplice ricordare Valentino, 96 debutta, 125, 97 vince il titolo, 98 debutta in due mesi, e l'anno successivo 99 vince il titolo. Lui un anno debuttava e l'anno dopo vinceva, e così anche in 500. E quindi questo non si dimentica, è una pista che ama molto, ha vinto diverse volte, potrebbe essere il jolly da giocare, l'uomo giusto nel momento giusto. Valentino un anno debuttava, un anno vinceva, Marc Marquez un anno ha debuttato, un anno ha vinto, e il secondo ha vinto ancora, perché questo, lo ripetiamo, è un mondiale assolutamente chiuso. Grazie Roberto. A voi grazie, un saluto, alla prossima, buon spettacolo. Grazie Roberto Ongaro. Intanto Vidal, le parole: il mio futuro è allenarmi bene, quindi Vidal che continua a tenere aperta la porta a un futuro che potrebbe essere anche lontano dalla Juventus. Ci fermiamo qui, io ringrazio Fabio Cantadori in regia, Alessandro Casali per l'assistenza, a lunedì. Intanto è piacevole essere convocati da voi, perché qua la convocazione è già un motivo di soddisfazione, perché il brutto è quando uno non viene neanche convocato e rimane fuori rosa. Vedo nuvole in viaggio che hanno la forma delle cose che cambiano. È inutile ci giriamo intorno e dire che io vedo i fantasmi. Iniziate a non dire fesserie. Rimangono. Il giorno dopo mi sente? Chiudo. Il giorno dopo adesso sì, un attimo solo. Se non effettivamente ho perso, cioè non ho dedicato un mese e mezzo ai problemi a Lazio, adesso spero di poterli dedicare. L'ho sentito con le mie orecchie, l'ho visto con le mie orecchie. Io so che è anche umano quando uno fa le cose bene, che se lascia un po' portare sull'acqua tranquilla, no? Allora io farò in modo che c'è un po' di temporale. Adesso questa nuova Inter, un Inter che sembra che abbia tanta fame. Sì, quello è il mio parere. Io personalmente il regalo di Ferragosto è Tarabo. Adesso vediamo. Ciao. Volevo salutare, adesso lo faccio, prendo il microfono. No, grazie, vi saluto tutti e forza Italia. Il passato è passato, nel bene e nel male. Poi che non salga nessuno su quel cazzo di carro, ve lo dico.